Rock FM, Milano, Italy. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Clash, ora Tour de Force. Importante essere pronti, ma voglio dire, quando hai una presenza come quella della DJ Cloud in studio, voglio dire, saltano tutte le sinapsi. Allora, parliamo dei Donkeys Forever, che saranno il 17 di maggio alla Cueva di Melegnano. Passiamo alla Rock FM All Stars Band. Ci vediamo per l'ultima data del Farewell Tour, sabato 24 maggio, carichi come delle molle, all'area Gens di Pontedera, località Gello, in provincia di Pisa. Ci saranno le magliette della Rock FM All Stars Band, sono stati costretti a rifarle visto che a Milano sono finite. Poi parliamo dei Bad Religion, che faranno un'unica data in Italia il 16 di giugno al Rolling Stone di Milano. Mark Knopfler sarà l'8 di giugno a Codroi, poi in provincia di Udine a Villa Manin, sarà anche il 6 a Roma, il 7 a Pesaro. Nick Cave and the Bad Seas, 28 maggio Milano Alcatraz, 30 maggio Sesto Fiorentino Villa Solaria, 31 maggio Perugia Villa Fidelia, 1 giugno Roma Tenda Strisce. Passiamo a il tributo ai Rush, gli XYZ, che saranno sabato 24 maggio al Fronte del Porto a Genova. Sud Sound System, sono noi. Il 16 maggio a Firenze all'Auditorium Flog. I Meganoidi saranno in tour il 15 di maggio a Milano al Politecnico di Milano. Parliamo anche di Big John Bates e le Voodoo Dolls, che saranno il 15 di maggio a Legend 54 di Milano. Parliamo anche dei Napalm Death, che saranno insieme ai Suffocation e Warbringer il 22 di maggio al Circolo degli Artisti di Roma, il 23 maggio al New Age di Roncade in provincia di Treviso con i Cripple Bastard, e il 24 di maggio a Rock Planet di Pinarello di Cervia in provincia di Ravenna, sempre insieme ai Cripple Bastard. I Rage Against the Machine saranno il 14 di giugno a Modena allo stadio Braglia, Rock in Field Festival 26 di luglio all'Idroscalo di Milano con Epica, Halloween, Threshold, Vision Divine, Vantage e Biomechanical. Travis Blues Band, Fabione sarà il 31 di maggio a Paderno Nugnano in provincia di Milano, l'anfiteatro Parco Lago Nord. Parliamo anche dell'Heineken Jamming Festival venerdì 20 giugno con Iggy and the Stooges, Queens of the Stone Age, Sex Pistols, Linea 77, Linkin Park. Il 21 di giugno con Matmata, Mab, Marlene Kunz, Vasco Rossi. Il 22 di giugno con Counting Crows, Baustelle, Alanis Morissette e Police. Il tutto si terrà presso il Parco San Giuliano di Mestre. In provincia di Venezia, altro festival, il Gods of Metal, dal 27 al 28 giugno a Bologna all'Arena Parco Nord. Il 27 giugno con Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Rose Tattoo, Apocalyptica, Airborne, Lauren Harris e King Crow. Il 28 di giugno con Slayer, Carcass, Meshuggah, Testament, At the Gates. Il 29 di giugno con Judas Priest, Ice Earth, Ingi Malmsteen, Morbid Angel, Obituary, Enslaved, Infernal Poetry e Nightmare. Parliamo anche degli After Hours, che saranno il 13 di maggio a Firenze Stascioli, il 23 di maggio a Milano al Palasharp. Il Rock of Ages Fest, che si terrà al Palasharp di Milano invece il 13 di settembre, con Gotthard Extreme e Twisted Sister. E chiudiamo con un'altra segnalazione che mi vede protagonista da vicino, sia quella quella che riguarda i Rockpit, la mia band tributo anni 90. Esibiremo il 6 di giugno presso la festa della birra di Santo Stefano a Macerata, nel comune di Cascina, in provincia di Pisa. Ripeto, il 6 di giugno, se volete venire intorno alle ore 20, naturalmente si fa una bella edocena e si cena tutti assieme, si fa quattro chiacchiere, quattro foto e poi si suona del buon rock and roll. Il Tour de Force torna domattina intorno alle 10.35 insieme a Marco. Rock FM. Mamma mia, one of these days, il Pink Floyd. Mamma. Mamma. Stavo temporeggiando in attesa che Claudia buttasse giù il bolo alimentare che ha creato all'interno delle sue fauci a seguito di un attacco di sbrano che... Mamma mia, non so cosa mi è successo, però per correre... È incinta Claudia, era l'ora che lo dicesse. Magari. Oh, ed è stato Lemmy quella volta che... Sei scemo? Sì, un po' sì. Dai, era ovvio. Non lo so, però per correre io al bar. Sì. O e avevi prendermi una... quelle esatto. quintalate di patatine. Esatto, non essere corso al bar perché t'avevi la cagarella, ma semplicemente perché. E non per bere. Hai dato attenzione. Anche perché al bar spesso. Vabbè, magari arrivare ci arrivi con le tue gambe, poi spesso invece ti devono portare problema via. Uscire, certo. Sì, il problema è sempre quello. 18:54. Ma sei matta, davvero? Ma abbiamo già praticamente finito, quindi andiamo a rispondere velocemente a chi scrive via SMS. Un saluto a Paola Crazy Peewee. Crazy Peewee? Una roba del genere. Dice, ascoltare voi due è il miglior antidepressivo, è puro piacere e un vero divertimento. Un mega bacione con affetto. Ma grazie, carissima. Ma grazie. Ma thank you. Ma dankeschön. Yeah. Küssenem. Questa cos'era? Era in ungherese. Com'è che si dice? Küssenem. Küssenem. Küssenem. Minchia, ma guarda vuol che... dire grazie. Ma guarda. Prego, si dice Sivashan. Ah, mestic... Che tradotto vuol dire di cuore. Mamma mia, che cari che sono gli ungheresi, mamma mia, sì. Allora, ciao, questa Claudia è davvero così figa? No, perché già il suo programma su Rock FM è il più brutto, no, scherzo. Un saluto a Corri da Cantù, un abbraccio e un saluto, poi un saluto a chi scrive al tele... aspetta. 335-100-7777. Poi Carlos dice, hola, dopo il Puma ora anche Dorossi e la Claudia riescono a farmi fare 30 minuti in più di mezzi e strada a piedi per non, per non prendere... Non prendere... La metro, poi... Ma sì, che far due passi fa bene, poi con queste giornate meravigliose approfittiamone. Esatto, e poi va giù la pancetta, voglio dire, la vostra pancetta da birraioli, almeno va giù, no? Poi c'è chi scrive VG e Viareggio, e c'è chi scrive vedi, no... Vedi, vedi, E no. Vergelli. Vergelli. Fantastico. Poi, Edo, mi fai piangere Iaia. No, scusa, non volevo far piangere Iaia, che mi sia... lungi da me. Poi un saluto a Sergio, invece hai ragione, Colin, Max De Rio deve essere sindaco di Milano e noi dobbiamo essere gli assessori. Claudia, tu cosa ti prenderesti? Assessore a cosa? Assessore agli sbronzi, ok? Claudia che si preoccupa all'alcol. Esatto. Scherzo. Esatto. Tempo libero, sport, divertimento e musica. Mamma mia, hai capito? Guarda come c'ha già il programma. Io sì. Poi, dunque, un saluto a Minti, dice, adoro sentire Edo e Claudia insieme alla radio, siete una coppia comica tremenda, avete una carriera davanti col cabaret, ma bromuro per Edo no, ma non ti piace, ma non ti piaccia così focoso, Minti, ma porca miseria, voglio dire. Pazzissima! Poi vi lamentate che siamo qui, che noi che abbiamo sempre una, e no, c'è la partita, e no, tesoro, sono stanco, voglio dire, è meglio caldo come una stufa che, no? O no, Claudia, è vero o no? Che palle sì. Se Edo non ci provasse almeno tre volte, certo. Tutte le volte che ti vede, no? Certo, certo, voglio certo. Dire. Se no chi noia. Voglio dire, ma scherza no. Sto imparando il vostro idioma. Un saluto a Geco 62 che dice, evviva le panze birraiole! Oh, grande, un salutone a te e a Claudia da Firenze. Grazie mille. Poi, dunque... 16 chiede, should I stay, should I go? Ne vogliamo parlare? Claudia? Dai, tanto voglio dire. Ha creato il gelo all'interno dell'Arena Parco Nord di Bologna. Sì, sentite cosa ha combinato. Ma no, insieme vabbè, al divino. Raccontato. Insieme al divino, no? Ma vabbè. Qualcuno magari non lo sa. Vabbè, allora. Area catering, ovviamente io intendo prendere da mangiare stranamente e quindi torno con il mio vassoio pieno di cibo e cerco un posto a sedere e vedo che l'unico posticino piccolino è proprio accanto a Joe Strummer che mi indica, mi dice vieni. Io mi avvicino col mio piccolo vassoio, tra l'altro il vassoio più piccolo del mondo ma pieno di cibo, cioè proprio veramente, allora lo guardo e gli dico, sai anche con la della serie tipo fantotico, lo hi, should I stay or should I go? Grande Claudia! Cioè ti giuro, Joe Strummer che era la persona più carina, più gentile, più disponibile del mondo mi ha guardato malissimo, mi ha guardato per dire senti pigli il tuo vassoio pieno di cibo e vattene. Esatto, non voglio mangiare. No, tra l'altro che... lui ha accennato ad un sorriso, gli altri presenti e seduti al tavolo, a parte il silenzio che si è creato, io con in mano il vassoio dico... Sorry, I'm joking. Si scherza, no? E gli ho detto, sì, sì, vattene però. E gli altri mi hanno guardato malissimo e poi dopo due secondi così hanno ripreso tutti a mangiare, ignorandomi completamente. Io mi sono seduta, ma ti giuro, volevo diventare piccola così. Ho detto, una volta che sto vicino a... Pensa te. Vabbè, grazie vabbè, Claudia, dai, queste sono belle cose. Così. Sì, sì, è tutto stupendo. Un saluto velocissimo ad Andre che dice, ma uno speciale voi due insieme no, ci fareste morire dalle risate. Ma magari. Ma io ho invitato Claudia alla Nottedo, che sarà martedì prossimo. Se lei viene, ovviamente. Le serate. Ah, è vero, se la serata non si può. Vabbè, ci inventeremo qualcos'altro. Ma a che ora inizi? A mezzanotte. Ah già, ma è martedì e tu non puoi perché è martedì 6. Ah, rock and roll. Esatto, ricordiamolo anche stasera. Poi Alessia, guarda che bel messaggio Alessia. Edo, dopo averti sentito venerdì sera a Milano sei diventato a pieno titolo il mio chitarrista preferito. Mamma mia, che bellezza. Alessia, adesso ti regaleremo un libro, dei CD o qualcosa perché questo non è possibile. Non è possibile. No, sappiamo benissimo che non è vero Alessia, però mi fa molto piacere che tu me l'abbia scritto. Alessia o Beatrice? No, Alessia. Alessia. Poi, aspetta che magari io ho delle amiche che si chiamano così. Poi, allora un saluto a Giuda che dice, sono a casa con mia madre ad ascoltarvi, siamo entrambi matti per Rock FM, ma quando posso passare a salutarvi in radio di persona? È un po' difficile. 30 al 31? Esatto, in realtà saranno gli unici giorni nei quali noi ci caleremo dagli studi perché insomma ci sono anche dei problemi a farvi salire in radio. Poi velocissimo, dunque Matte da Firenze, a Max Maggi 68 che giustamente ci fa notare che Viareggio non fa provincia. Ma io lo sapevo benissimo, stavo scherzando. Certo, un'esperta di toponomastica. Ma io cosa avevo detto per prima? Vigevano. Ah, infatti. Vabbè. Senti, allora io ringrazio tutti, vi saluto, dobbiamo assolutamente scappare. Saluto e ringrazio. Solito messaggio, sei bellissima, la più brava è Pinocchio, no? No, assolutamente. No, non è arrivato. Okay. Ringrazio naturalmente la collega Claudia per essere stata qua con me. Ma io ringrazio te. Ma allora andiamoci. Sai che sei il mio chitarrista preferito, Edo? Possiamo andarci, ringraziamoci nell'angolo qua adesso, buttiamoci una. Grazie davvero Claudia, grazie a tutta la Rock Family, rockfamily.it mi raccomando, è stato un talk show oggi in realtà, più che un programma. Ci sentiamo domani dalle 17 sempre su Rock FM, mentre Claudia la potete trovare questa sera al Rock and Roll di Milano con il suo splendido DJ set, magari ci siamo anche io e la Bea a farci una birretta, giusto per alimentare la panza. E poi dai, ma vieni lì anche tu domani, così mi dai anche il cambio, così quando devi andare in bagno, ma guarda che no. E poi naturalmente alle 12 domani, dalle 12 alle 14 al posto di Mozzi. Esatto. Grazie Claudia, ti adoro, a che domani. Che James Hetfield sia con voi. Oh yeah! Era troppo? Sì. Va bene. Ma ieri ho tradotto questa letterina che Dave Grohl ha scritto in Metallica nell'attesa del nuovo album e la frase più bella è: ragazzi, io ho ascoltato ogni vostro album, anche Sentenger. Per dire che quello proprio mi faceva cagare. E Dave Grohl ha ragione. Esatto, chiama un po' Dave Grohl, digli se salva Rock FM. A domani! A domani!